Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano. E anche di Giorgio De Luca, Claudia Schiattone, che sono dietro al vetro insieme a Roberta Frisani in regia. Allora, oggi grandissima puntata, è venuto a trovarci Luca Marelli, ex arbitro e opinionista apprezzato, nonché amico di tutti i convocati. Ciao Luca. Ciao. Quindi se avete domande sulla VAR, su che cosa succede davvero da settembre, siamo qui. Vi do subito i riferimenti: 800 24 0024 per le vostre chiamate in diretta, quindi basta chiamare, prenotarsi e verrete richiamati, oppure 349 238 6666 SMS e WhatsApp. E poi siamo visibili, come ormai tradizione, sulle nostre pagine Facebook di Radio 24 e tutti convocati trattino Radio 24. Siamo qui fino alle 15.30, stiamo seguendo l'amichevole dell'Inter. Inter-Schalke 04, 0-0, siamo poco dopo la mezz'ora. Inter un po' più viva rispetto a quella che abbiamo visto nelle prime due uscite, ma eravamo davvero all'antipasto della stagione. E comunque ve la racconteremo e poi la commenteremo con Fabrizio Biasin. Dopo le 15 c'è Racing Team, quindi arriva la coppia Leo Turrini e Roberto Ungaro. Alle 14.35 c'è Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, dagli Stati Uniti. Insomma, è una puntata da non perdere. Parliamo di arbitri, Luca? Parliamo di arbitri. Allora, intanto la notizia ieri: Rocchi e i suoi fratelli vanno a fare la finale di Supercoppa Europea a inizio agosto a Skopje, Real Madrid, Manchester United, il che significa che siamo i migliori. Non è una grande novità, diciamo così. Poi tra l'altro Rocchi corona una grande stagione, forse gli è mancata la finale di Europa League, è stato scelto un altro arbitro, è una parziale compensazione di qua, forse una piccola delusione che ha subito Gianluca, però meritatissima. Ricordiamo anche i suoi collaboratori che saranno l'inizio di Liberatore, Mauro Tonolini. Sì, e poi ci sono Massa e Errati a fare gli addizionali e insomma ci mandiamo noi i nostri arbitri. Siamo alla vigilia della rivoluzione della VAR e adesso cerchiamo di capire se siamo pronti o no. Siamo alla vigilia anche della prima stagione senza Rizzoli in campo. Ti piace come designatore? La scelta migliore, a mio parere. Persona di cultura, persona che conosce molto bene il mondo arbitrale, conosce molto bene lo sport, il calcio in particolare, è molto ben visto, tranne piccole eccezioni, ma saprà farsi valere, soprattutto avrà la capacità, a mio parere, di poter lanciare giovani ciò che è mancato negli ultimi anni. Soprattutto nelle ultime gestioni abbiamo assistito a campionati diretti sempre dagli stessi. Questo non va bene, soprattutto perché bisogna preparare il ricambio. Il ricambio adesso comincia a essere urgente, dato che stanno per uscire i senatori, che sì, sono tagliamenti quindi, a Rocco. E quindi o ne abbiamo di nuovi dietro, oppure c'è il rischio che rimanga solo Orsato. Chi è oggi il miglior arbitro italiano? Secondo me Rocchi. Rocchi? Sì. Perché c'è sempre questa cosa, Rocchi, Orsato, Orsato, Rocchi. C'era Rizzoli fino a qualche mese fa. Va a gusti. Ci sono 50 arbitri che preferiscono Rocchi, 50 che preferiscono Orsato. Se facessimo invece un sondaggio aperto, probabilmente avremmo 30 Rocchi, 30 Orsato, 15 Banti. Insomma, è normale, ognuno ha i suoi gusti. Dal mio punto di vista Rocchi è colui, è l'arbitro che si avvicina più al mio modello di arbitro. Oh, vediamo anche un aggiornamento di calciomercato. Era tutto abbastanza scontato, forse tranne la tempistica. Bernardeschi è un giocatore della Juventus, non c'è ancora l'ufficialità. Ieri aveva mandato in ritiro alla Fiorentina il certificato medico gastroenterite acuta. Oggi c'è stato l'accordo tra i due club, 40 milioni più il 10% su una futura rivendita con un tetto massimo di 5 milioni. Questo è l'accordo che hanno trovato Juventus e Fiorentina e quindi Bernardeschi nelle prossime ore straccerà il certificato medico, si presenterà in ritiro. Parleremo anche di questo, della moda dei calciatori in quest'estate di avere mille problemi per forzare i trasferimenti. Siamo con Luca Marelli, siamo pronti per la VAR? A livello tecnico sì, a livello mass mediatico secondo me no, perché non c'è stata un'adeguata formazione, un'adeguata pubblicità di come funzionerà effettivamente. Molti si aspettano una moviola in campo vera e propria che non sarà, mentre invece dovremo abituarci a capire che lo strumento, il VAR, la VAR, e gli arbitri dietro ai monitor, cioè i VAR, interverranno soltanto in alcune specifiche situazioni. Perciò possiamo dimenticare, per esempio, di pensare di rivedere falli commessi a centrocampo che possano portare o meno una munizione. Queste non ci saranno. Il problema è che fino adesso la comunicazione è stata molto settoriale. Cosa intendo? Intendo che gli arbitri hanno già le idee molto chiare. Chi ha le idee è tutto il contorno intorno. Ecco, è quello che c'è intorno che non ha ancora compreso perfettamente quale sarà il concetto di VAR, il concetto stesso di VAR. Tanto sì, più a me ha molto colpito sentire da un addetto ai lavori come Maurizio Sarri, quindi allenatore del Napoli, di una grande squadra, dire ad esempio: voglio sapere i nomi di chi andrà a fare il VAR, cosa che è scontata, perché ci saranno le designazioni. Come è stato sia nella Confederation Cup che nel Mondiale Under 20 che nelle finali del campionato primavera che si sono svolte il mese scorso. Erano noti sia l'arbitro che gli assistenti che ovviamente il VAR, anche perché tra l'altro bisogna ricordare che il VAR 1 in caso di infortunio dell'arbitro potrebbe anche essere chiamato a dirigere, anche se l'idea in questo momento, anzi l'indicazione è quella che il quarto ufficiale sarà un arbitro, perciò il VAR rimarrà all'interno della cabinotto, come chiamiamo. Della cabina della regia TV. Poi si apriranno altre mille problematiche, ma noi siamo qui il 20 agosto con la partenza del campionato, torneremo anche con tutti i convocati weekend e seguiremo passo passo quello che accadrà soprattutto nelle prime settimane. Io credo che non caleranno le polemiche, anzi aumenterà il livello delle polemiche. Sarà difficile ad esempio togliere dalla testa dei tifosi l'idea, in caso di errori, e ne abbiamo visti anche clamorosi ad esempio nella Confederation Cup, che a quel punto è malafede, perché diventa difficile giustificare un errore per un tifoso davanti al teleschermo. Secondo me invece avremo un aspetto molto positivo, io la vedo dal punto di vista positivo. Noi capiremo quali sono gli arbitri tecnicamente molto bravi, quelli tecnicamente meno bravi, perché davanti a un'immagine è più difficile sbagliare. Se la valutazione invece dovesse essere totalmente incoerente con ciò che viene pensato, quello che viene visto dall'esterno, evidentemente saremo di fronte a un arbitro che non solo ha avuto una svista, ma non è in grado di giudicare bene. Noi l'abbiamo visto soprattutto la Confederation Cup, abbiamo visto degli arbitri revisionare delle immagini, rivisitare degli episodi e decidere in maniera totalmente incoerente. E sbagliare. Sbagliare. Però sarà difficile spiegare che un arbitro ha sbagliato anche rivedendosi 3, 4, 5 replay. Secondo me in Italia, a parte i casi borderline, errori come quelli che abbiamo visto in Confederation Cup o Mondiale Under 20, non li vedremo mai, perché i nostri arbitri sono migliori. Ne abbiamo di meglio. Poi vediamo cosa succede. L'anno scorso sarebbe cambiato qualche verdetto a fine stagione, con la VAR attiva nel campionato di Serie A? Non credo proprio. Cioè la Juve avrebbe vinto lo scudetto. La Juventus era la squadra più forte. Roma e Napoli sarebbero andate in Champions League. Sicuramente hanno avuto un vantaggio tale che non si può certo annullare con uno o due errori durante il campionato. Allora, abbiamo il traffico 800 24 00 24. Se volete chiamare, vi prenotate per intervenire 349 238 6666. Minuto numero 40, amichevole in Cina tra Inter e Schalke 04, 0-0 risultato. Così a occhio, nei primi 40 minuti il migliore dell'Inter è Perisic, che apre a mille altri temi di mercato. Oggi sono anche i 100 giorni del nuovo Milan di Fassone. Allora, adesso traffico, torniamo subito, parliamo anche di questo. Tutti convocati. Sempre 0-0 Inter Schalke 04, ricordo alle 14:35 dagli Stati Uniti Umberto Gandini per fare una bella chiacchierata sulla Roma, ma non solo, anche sul calcio italiano, come viene percepito all'estero e insomma qual è il nostro stato di salute. 800 24 00 24, Nicola dalla provincia di Milano, vai Nicola. Buongiorno a tutti. La mia domanda era questa: dato le difficoltà per arrivare all'attaccante, alla punta del Milan, a Belotti, Morata, Aubameyang, non converrebbe a questo punto prendere sì Kalinic, che sembra che comunque vada, arrivi lo stesso, ma cercare di andare su un altro obiettivo che eravamo sopra all'inizio, su Keita. Keita adesso appunto sembrerebbe che va all'Inter, ma c'è un'offerta di 20 milioni più 2-3 di bonus, a noi potremmo usare come contropartita Bacca più Borini, che lo voleva. Sì, si può fare tutto, Nicola. Io credo che si possa anche essere soddisfatti di quello che sta facendo il Milan. Poi per carità, si può sempre migliorare. Io credo che Kalinic sia un grande colpo, non sia assolutamente una seconda scelta. Oggi ha ragione, l'ha detto Mirabelli, credo, nell'intervista al Corriere dello Sport. Poi se arriva Belotti ha un altro fascino, è un'altra suggestione. Però credo che i tifosi del Milan debbano anche sapere accontentarsi, e se proprio serve un rinforzo si può anche ragionare ad esempio sul centrocampo. Saluto Matteo Marani, direttore di Sky Sport 24. Ciao Matteo. Buongiorno, ciao. Allora dai, oggi sono i 100 giorni del Milan di Fassone, che si è regalato per i 100 giorni la presentazione ufficiale di Bonucci. È stato bello ricevere questo entusiasmo e, ripeto, come ho scritto sui social network, spero di alimentare questo entusiasmo con le vittorie durante l'anno, perché il Milan merita di ritornare a vestire un abito importante sia a livello italiano che a livello europeo. Come ho scritto, uniti si può vincere, perché la forza deve essere la forza della squadra. Nulla lo fa il singolo, ma tutti insieme possiamo ritornare in alto, perché la società e la storia di questa squadra lo merita. Questo Bonucci che oggi in Cina si è presentato, con noi in studio c'è Matteo Marani, no, con noi in studio c'è Luca Marelli, c'è Matteo Marani al telefono. Matteo, siamo i primi 100 giorni del nuovo Milan, quello di Fassone, Mirabelli, dei cinesi, ma anche degli americani. Tu sei riuscito a capire l'impatto di questa rivoluzione? L'impatto mi sembra sotto gli occhi, cioè nel senso che poi capiremo esattamente col tempo dove porterà quella che comunque è una rivoluzione, certamente lo è, nel senso che nessuno credo si potesse solo lontanamente aspettare questa campagna acquisti, cioè un club che fino, diciamo, all'ultimo non riusciva a trovare soldi per il closing è riuscito a mettere sul mercato la cifra con cui avrebbe fatto probabilmente il closing, quindi è come, lo dico simbolicamente, è come se il Milan avesse fatto una sorta di doppio closing nel giro di pochi mesi. Al di là di ogni aspettativa, sicuramente non eravamo più abituati a vedere un club italiano con, diciamo, di questa portata, leader in questo momento a livello internazionale, perché nessun club in Europa ha speso quanto il Milan finora. Credo, insomma, mi sembra anche che abbia acquistato bene. Manca logicamente la punta, perché guardando un po', scorgendo un po' i numeri del Milan dell'anno scorso, alla fine il problema vero del Milan, cioè quello che ha fatto la differenza, il freno rispetto alle prime, è stato il fatto che la squadra segnasse poco. Quindi messa a posto la difesa, preso un leader sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto temperamentale come Bonucci, e credo che sarà decisivo proprio per costruire anche, diciamo, l'ambiente, lo spogliatoio. A questo punto ci voglio una punta che fa gol. Ti ascoltavo prima, Giovanni, tu dicevi giustamente Kalinic è un ottimo acquisto, i tifosi del Milan potrebbero esserne comunque soddisfatti, però è chiaro che capisco perché poi molti loro spingano e vogliono Belotti, perché parliamo con un attaccante che di gol ne ha fatto il doppio e che ha una forza davanti dirompente, come diceva ieri sera da noi a Sky Cristian Vieri, che è un po' unica, ecco. Quindi in questo momento il Milan, se vuole veramente fare l'ultimo balzo ed essere una squadra da primissimi posti, quindi non nelle prime quattro ma addirittura da primi due posti, e con Belotti magari si potrebbe aprire anche quello scenario lì. Sì, io resto abbastanza convinto che Juventus e Napoli l'anno prossimo facciano un campionato a parte, e al Milan sbagliano se si mettono in testa, Luca, di poter essere competitivi già per lo scudetto. Sì, a mio parere c'è una differenza ancora abissale tra soprattutto Juventus e Napoli di questo periodo con tutte le altre. Anche la Roma secondo me in questo momento si è un po' allontanata, poi bisogna vedere come completerà il mercato, chiaramente. Oh, leggo un paio di messaggi. Corrado scrive: se il Milan non va in Champions fallisce, salta la società. La risposta è no. Detto questo, è una scommessa economico-finanziaria oltre che sportiva, ma ne stiamo ormai parlando da giorni. Un altro chiede se Andrea Silva non è una punta. È una punta, secondo me, se deve fare la riserva. Matteo è anche stato pagato troppo. Forse c'è stata un po' di fretta. Sì, anche un po'. Se bisogna cercarne uno o due adesso, vuol dire che probabilmente lì c'è stata un po' di fretta. Sì, esatto, è stata un'operazione molto celere, la raccontava proprio stamani, credo Fassone, in intervista alla Gazzetta dello Sport. È stata una cosa molto molto molto rapida, fatta in poche ore. No, dicevo, ha anche un procuratore, insomma, influente, forte, Andrea Silva, e Jorge Mendes. e quindi gode anche ovviamente di una stampa importante, sai, quando Cristiano Ronaldo, che tra l'altro è stesso, diciamo, assistito dallo stesso procuratore, dice il futuro dopo di me è lui, è chiaro che questo agevola poi, diciamo, nella costruzione anche dell'immagine, però è un buon giocatore Andre Silva. Se posso agganciarmi rapidamente, John, io sono d'accordo con voi, cioè credo anch'io che in questo momento, per una serie di ragioni, Juventus e Napoli siano quelle più pronte e preparate per giocarsi il campionato, cioè sono le uniche due squadre che io vedo in questo momento che possono sbarcare la soglia dei 90 punti, che poi è quella che decide il campionato, cioè sia Juve che Napoli per ragioni diverse hanno il potenziale per farlo, secondo me Milan, Inter e Roma in questo momento non ce l'hanno. L'unica cosa, io andrei un po' cauto nel vedere in questo momento un Inter, come dire, indietro nella corsa, cioè secondo me l'Inter era già un'ottima squadra che per tutta una serie di ragioni non è riuscita, diciamo, a esprimerla nella scorsa stagione, ma l'organico era già in partenza un buon organico. Sì, la scommessa è che il valore aggiunto sia Spalletti, che tra l'altro è parso anche moderatamente nervoso nei giorni scorsi, ma c'è da capirlo perché l'aspettativa è alta. Era alta l'aspettativa sul mercato, secondo me indotta da fuori nei tifosi dell'Inter, ma anche questo è tema che è stato ampiamente dibattuto nei mesi scorsi. Quello che a me stupisce è l'aria nuova che si respira quest'anno, ad esempio a Napoli, dove parlano di scudetto apertamente, senza falsi pudori, e che secondo me racconta di come la stagione che ci aspetta sia una stagione davvero particolare, diversa, in controtendenza rispetto alle ultime. Però questa è la mia opinione, Matteo. Ma io, guarda, sul Napoli ho molte aspettative, non lo nascondo. Cioè, io credo che il Napoli in questo momento sia in assoluto, perché qui è soggettivo, cioè ognuno ha il suo di gusto, dal punto di vista soggettivo secondo me è la squadra che gioca il calcio più divertente, cioè io le ultime domeniche della scorsa stagione ammetto, confesso, che sono veramente divertito a guardare il Napoli. Tra l'altro il Napoli nelle ultime 8 gare della scorsa stagione ne ha vinte 7, pareggiata una, e in quelle 8 gare ha fatto 25 reti, cioè è una squadra che è uscita, diciamo, ha lasciato il campionato scorso con un filo straordinario e che senza il famoso mese diciamo di passaggio tra Milik e Mertens, il momento in cui c'è stata la defaianza. Ha fatto 10 punti in 7 partite. Esatto, dicevo, nel momento il Napoli l'anno scorso ha pagato il passaggio dagli infortuni Milik, diciamo, finché non si è trovata la soluzione alternativa di Mertens, quando si è provato Gabbiadini, un po' di soluzione. Senza quel mese lì, il Napoli sostanzialmente ha tenuto il passo della Juve tutta la stagione. Il Napoli, aggiungo, ha fatto secondo me una scelta molto saggia, molto opportuna, di farsi la preparazione in Italia, a casa, in montagna, senza fare tournée in giro per il mondo. L'unica freno che ho sul Napoli è il preliminare, perché è chiaro che il preliminare di Champions in questi anni ha sempre pesato, quindi un prezzo lo presenta, però vedo un gruppo molto unito, vedo un grande equilibrio, vedo un allenatore maestro come Sarri, che fa giocare la squadra in modo meraviglioso, e se De Laurentiis, come dire, anche lui aiuta e sostiene la squadra nel modo giusto, secondo me il Napoli può essere veramente la squadra, diciamo, l'anti-Juve. Sì, decisamente. Ci prendiamo ancora un minuto. Chiedo a tutti e due, oggi Bernardeschi di fatto ha trovato l'accordo con la Juventus. La Juve è più forte o più debole dell'anno scorso, Luca? In questo momento la Juventus secondo me ha perso qualcosa, soprattutto in difesa, perché manca uno dei perni centrali dei 6 scudetti consecutivi. Rugani, che mi dici? Pronto? Pronto? Era arrivato il momento di lanciarlo, no Matteo? È arrivato il momento di lanciarlo e io spero che venga lanciato, perché oggi è il 21 di luglio, quindi il mercato ancora non è chiuso e non so se poi magari all'ultimo si vira, diciamo, su un usato sicuro un po' più stagionato. Adesso, al di là delle battute, è chiaro che Bonucci, diciamo, non ha un equivalente, se trovare un giocatore con quel tipo di caratteristiche è pressoché impossibile. Potrebbe essere l'opportunità appunto per dare spazio ai giovani. Credo anch'io che la Juve ovviamente dietro un po' abbia perso, un po' perché non ha più Bonucci, che è il leader riconosciuto della linea difensiva, un po' perché Barzagli viaggerà sui 36, perché lo stesso Chiellini non è più giovanissimo, Benatia, che secondo me è un eccellente difensore, però diciamo non ha caratteristiche di impostazione come aveva Bonucci, quindi dietro la Juve perde. Davanti io invece ci andrei un po' cauto, nel senso che secondo me tra Bernardeschi e Douglas Costa in Italia io credo che possa fare la differenza proprio come caratteristiche di gioco sue, cioè questa potenza che ha in fascia da andare dentro e dall'altra parte il talento secondo me assoluto i bernardeschi, credo che lì la Juve probabilmente la Juve è anche più forte. C'è chi ci chiede quando faranno i calendari della Serie A, 26 luglio. Grazie Matteo Marani. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie Matteo, velocemente dai, Franco da Venezia, poi dopo la borsa abbiamo Umberto Gandini dagli Stati Uniti, amministratore delegato della Roma. Franco. Sì, buongiorno, grazie per la chiamata. Devo sapere come potrebbe verificarsi un episodio che si è verificato quest'anno in Torino-Napoli, quando un guardalinee ha fermato un giocatore del Napoli lanciato a rete, e poi la moviola ha dimostrato che il fuorigioco non c'era. Quindi vuoi sapere se con la VAR questa cosa sarebbe sanabile, Luca? Sì, cambierà un po' anche il ruolo degli assistenti, che saranno chiamati ad attendere un po' di più, ad alzare la bandierina un po' meno, soprattutto nei casi limite. Quest'anno verrà accentuato il concetto di wait and see, con un'accentuazione del wait, che molto spesso aspetti, piuttosto lo mandi in gol e poi si rivede l'azione, perché se lo fermi dopo diventa impossibile intervenire. Quindi cambieranno tantissime cose. 800 24 0024, la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Quest'estate il falco e il gabbiano non volano in vacanza. Rimaniamo con voi riproponendovi le puntate che voi ci avete chiesto di farvi riascoltare. Cornelia Ender e tutte le vittime del doping di Stato in Germania Est. Il falco e il gabbiano vi aspetto oggi alle 15.30, naturalmente su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Siamo nell'intervallo di Inter Schalke 04, 0-0 risultato. Tra qualche minuto ne parliamo con Fabrizio Biasin, sono con Luca Marelli e sono con Umberto Gandini, che ringrazio particolarmente. Gandini, buon pomeriggio, anzi buona mattinata. Grazie, buongiorno a voi. Gandini, che si trova negli Stati Uniti, dove c'è la Roma per la sua tournée. A Detroit l'altra notte quasi 40.000 spettatori, no? Per la partita con il Paris Saint-Germain, sì. Questa notte ne abbiamo visti 70.000 per il derby di Manchester a Houston, che sono credo numeri che spiegano perché i grandi club praticamente tutti girino il mondo d'estate, no Gandini? Sì, ma ormai direi che sono anni nei quali i grandi club seguono questa esempio, questa tradizione, cioè quella di andare a preparare la stagione approfittando di situazioni climatiche magari non proprio ideali a seconda dei paesi scelti, ma con impianti di alto livello e in aree dove il calcio sta crescendo. Ormai da anni a questa parte, con l'associazione con Relevant che organizza questa ICC negli Stati Uniti e in Asia, i grandi club hanno trovato un percorso comune e questo permette di portare con continuità questo tipo di prodotti in arene dove altrimenti non avrebbero questo tipo di calcio. Sì, in arene, che poi significa mercati, con tutto quello che ne segue, resta un sacrificio tecnico, perché ne parlavamo prima, il Napoli che da un mese è in montagna, forse dal punto di vista della preparazione atletica avrà qualche vantaggio, ma prima o poi anche il Napoli ci andrà. Ma non è tanto quello, io credo che sia abbastanza relativo, perché francamente è chiaro che se uno potesse scegliere un percorso ideale vivendo in una bolla, dice io sto a casa mia, ho tutto a casa mia, lavoro con la mia struttura, eccetera, e vivo in questo senso. I risultati alla fine, guardate il risultato dello scorso campionato, le squadre che sono arrivate alle prime tre, una non è andata da nessuna parte, la prima e la seconda hanno fatto delle tournée, quindi non è che ci sia una controprova dal risultato finale di un campionato. Certo, sono scelte, e noi siamo una società improntata alla crescita, riteniamo che sia il nostro prodotto calcio, ma anche la città di Roma meriti e ci imponga di andare in giro per il mondo a portare avanti questo vessillo, e quindi noi siamo anche molto contenti di farlo. Poi nel nostro caso, avendo anche una proprietà americana e quindi avendo anche tutta una serie di facilitazioni, il modo in cui noi lavoriamo qui a Boston in collaborazione con l'Università di Harvard è sicuramente ideale per la preparazione. Sì, no, non fa rimpiangere Trigoria, che pure è un centro sportivo assolutamente all'avanguardia. Di altissimo livello, certo. Ma Stati Uniti e Cina, Giappone, Australia restano delle meravigliose mete per le tournée estive, o come qualcuno anche ha scritto in questi anni, arriverà il momento in cui il calcio europeo andrà esportato lì anche d'inverno? Ma anche questo è un po' nel disegno di qualcuno forse, però è abbastanza difficile immaginare che vengano giocate, così come succede per la NFL, partite della stagione regolare in giro per l'Europa. Noi abbiamo tutta una serie di vincoli, di regole, per le quali fino adesso nessuno dei grandi campionati europei è riuscito effettivamente a mettere in campo una cosa di questo tipo. I tentativi, come vedete, vengono fatti spesso e volentieri con le supercoppe. Adesso la Francia va a giocare la sua supercoppa a Tangeri, l'Italia ha giocato a Doha a gennaio, a dicembre, quindi ci sono particolarmente cose di questo tipo. La Premier League fa questo torneo asiatico tutti gli anni, la Lega Spagnola cerca di seguire quella strada. Sicuramente aumenterà il tipo di qualità, però anche guardando la partita che abbiamo giocato noi col Paris Saint-Germain, non è più il tempo di squadre che vengono negli Stati Uniti per passare il tempo e fare soltanto un esercizio di brand. Vengono proprio anche a prepararsi, e siccome giocano con squadre di loro livello, più o meno allo stesso livello di preparazione, anche il prodotto calcio è più attraente. Sta diventando un circuito parallelo dove tra l'altro non si possono fare figuracce, ma non solo per questioni tecniche, ma anche per questioni di brand, per questioni commerciali e per tutto quell'indotto che è anche il motivo per cui la Roma sta negli Stati Uniti, la Juventus anche, Inter e Milan in queste ore sono in Cina. Ovviamente i tifosi della Roma ci stanno scrivendo per chiederci se Nainggolan ha rinnovato, rinnova o no, perché poi il tifoso è interessato a capire chi c'è nella sua squadra. Cosa gli possiamo dire? Che assolutamente il dialogo è apertissimo. Raja è un giocatore della Roma, ha un contratto ancora pluriennale. Assolutamente positivi verso la costruzione di una squadra, comprendente Raja, che dà la grande soddisfazione. Secondo lei è stato capito appieno dai tifosi della Roma il nuovo progetto, quello iniziato con l'arrivo di Monchi? Ma io mi auguro di sì. Effettivamente un po' di tensione, o più che altro di scetticismo, lo posso anche avere un po' percepito, però direi che il messaggio principale che il presidente Pallotta ha voluto dare e ha dato è sulla solidità del progetto, sulla continuità. Andando a scegliere un professionista di altissimo livello come Monchi, ha chiaramente detto che lui conta moltissimo sul fatto che la squadra continui a crescere e che quindi i risultati della Roma vadano soltanto a migliorare. È evidente che nessuno ha la bacchetta magica in mano. Monchi è arrivato in una situazione definita dai percorsi degli anni passati, era necessario fare delle operazioni, ne ha fatte alcune, ne sta facendo delle altre, però sicuramente gli arrivi stanno migliorando la squadra, questa è la cosa più importante. Ma l'obiettivo sul campo cos'è per questa stagione? Ne parlavamo prima, a Napoli oramai hanno sdoganato la parola scudetto e il Napoli in teoria parte dietro la Roma se si legge la classifica della stagione scorsa. Ma allora, è evidente che una grande squadra come la Roma non possa che pensare a giocare per vincere il campionato, e quindi questo è sicuramente un obiettivo che tutti ci siamo prefissi e che credo sia comune almeno a 3 o 4 squadre in Italia che tradizionalmente giocano per vincere. Poi evidentemente ci sono le partite, evidentemente ci sono tantissime situazioni che contribuiscono a definire poi il risultato finale. Siamo in una situazione in Italia dove sono 6 anni che la Juventus vince il campionato, la Roma è quella che costantemente gli è stata più vicina, quest'anno siamo arrivati a 4 punti, dobbiamo fare ancora un passo avanti. Non possiamo però l'obiettivo è quello, insomma. Ma l'obiettivo è quello di fare il meglio possibile fino all'ultimo minuto di ogni singola partita, e questo ovviamente, qualora succedesse, ci porta ad essere tra i primatori, se non la squadra che primigerà, che dominerà. Però da questo punto di vista, ripeto, bisogna anche essere realisti e ricordarci che ci sono gli avversari e ricordarci che l'obiettivo non è soltanto nostro, ma è quello di tutte le grandi squadre. Quindi faremo tutto il possibile e magari in qualche caso anche l'impossibile, visto che ormai nulla è impossibile, per riuscire ad arrivare al massimo traguardo. proposito, le fa impressione vedere come torna il Milan? Lei ci ha lavorato per 23 anni, oggi parliamo e abbiamo parlato dei primi 100 giorni di Fassone del nuovo Milan. Che effetto le fa? Sì, in effetti, ecco, la cosa più importante che lei ha detto fino adesso è che il nuovo Milan, perché è un'altra cosa. Ovviamente il Milan, il brand è sempre lo stesso, eccetera, però il cambio di proprietà, almeno per me, è stato proprio una cesoia netta rispetto al passato, e la dimostrazione è quello che stanno facendo in questo mercato, e che sta riportando in un campionato importante come quello italiano una squadra di altissimo livello e di grandissima importanza come il Milan, e questo chiaramente non potrà che far piacere ai tifosi, sia milanisti che non, perché comunque il campionato, almeno sulla carta, sarà ancora più interessante. Come dicevo prima, l'Italia è una delle poche, io credo l'Italia e la Premier League siano le due leghe dove ci sono costantemente più di quattro squadre che seriamente competono per vincere. Sì, io so che è un discorso 5, difficile 6, per i tifosi, meglio un avversario di grande livello in più che uno in meno, questo per mille motivi. Le giro una domanda che è arrivata adesso da un tifoso della Roma: se arriva lo sponsor di maglia, così soddisfiamo questa, questa curiosità. Ovviamente è una delle priorità che abbiamo, è una situazione che deve assolutamente definirsi. Ci sono opportunità buone, meno buone, ci sono situazioni da valutare. Sicuramente la società è impegnatissima a trovare quelle risorse che ci agevoleranno nel percorso di competitività che ci siamo disegnati. Un'ultima domanda da farle: ieri il ministro Lotti ha confermato che il governo vuole cambiare la legge sui diritti TV distribuendoli in maniera più equa. Mio parere personale, l'importante è che poi tutti investano nel calcio e non si limitino semplicemente a prendere risorse. Qual è la posizione della Roma? La posizione della Roma è, da un lato, di una certa preoccupazione, perché sicuramente la situazione in cui ci troviamo oggi con la governance della Lega è francamente preoccupante. Capisco e condivido certe affermazioni del ministro, con il quale il dialogo è continuo, non solo sulla governance della Lega, ma anche appunto sul futuro del calcio, la legge dell'Andre e altre cose. Certo, maggiori risorse finalizzate a migliorare l'equilibrio competitivo sono sicuramente importanti e benvenute. Sono un po' scettico sul fatto che l'equilibrio competitivo in campo sia possibile raggiungerlo attraverso delle norme scritte, quando appunto invece poi l'importanza è come queste risorse vengono impiegate. Sì, perché c'è il rischio semplicemente di dare qualche milione in più a chi poi fondamentalmente può anche accontentarsi di fare politiche legittime dal punto di vista industriale, ma meno attente al risultato sportivo. Però, ripeto, questa è una mia interpretazione. Se posso, soltanto fare una puntualizzazione. Il riequilibrare ovviamente viene quasi naturalmente interpretato come distribuire risorse più a pioggia verso il basso, ma non dimentichiamoci comunque che noi abbiamo un calcio di vertice che deve mantenere una certa posizione in Europa, con delle società che, seguendo l'esempio recente della Juventus e di altre squadre prima, devono ambire ad essere competitive in Europa, e quindi mi sento di dire che assolutamente nella visione del ministro ci sarà sicuramente anche attenzione verso quelli che trainano il treno del calcio italiano, quindi la locomotiva, e non soltanto per i vagoni. Sì, perché è già complicato così in Europa. Grazie ad Umberto Gandini. Grazie, è stato davvero un piacere. Dagli Stati Uniti, dove si trova con la Roma in tournée. Siamo in ritardo un minuto sul traffico, è cominciato il secondo tempo di Inter Schalke 04, 6 minuti 0-0, è entrato Borca Valero. Ci sono Domenico da Torino e Nicola da Napoli, da cui ripartiamo dopo il traffico. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Tutti convocati. Ti ricordo, vorrei vedere l'Inter. Sì? Comprare dei grandi giocatori, i campioni. Basta comprare sempre questi mezzi giocatori, ce ne ha 6.000 in squadra. Compra i giocatori di qualità. Questo Bobovieri ieri a Sky ci è andato giù leggero, sull'Inter 800 24 00 24. Vi faccio sentire anche Sabatini ieri in una surreale intervista all'aeroporto a proposito di Schick. Amavamo tutti. Dai ragazzi, non posso parlare. Sono battuta. Io non posso parlare privatamente, parlo solo in sala stampa. Perché le piace come giocatore? È un talento, ma non è un giocatore nostro, purtroppo. Mi fate passare. Sì. Manca ancora molto? Manca tutto, è un giocatore della Sampdoria. E a proposito di Schick, Ferrero. Ma io quello che fa la Juventus lo dovete chiedere a lei. Io so che il ragazzo è mio, me lo tengo. Cioè, ci sono una serie di squadre che lo vogliono, per cui adesso sto pensando di tenermelo, perché non l'hanno comprato a quelle cifre importanti, lo compreranno a doppia cifra, tripla cifra. Domenico da Torino, Domenico. Buongiorno. Vai. Una semplice domanda sul VAR. Come mai non è stata scelta, diciamo, la chiamata challenge, come poi in tutti gli altri sport, in cui è l'allenatore che, non so, magari due volte per tempo ha la possibilità di chiedere. Sì, come succede nel tennis, nella pallavolo e mille altri sport. Nel football americano, allora, nel basket, nella pallavolo. Risposta di Luca Marelli. È stato interessante. Sì, nel basket non è così, sono gli arbitri che decidono quando vuoi rivedere le immagini. È una soluzione che io avevo ipotizzato, da parte mia mi sarebbe piaciuta, però in questo momento è stata scelta questa soluzione di interagire tra il VAR 1, il VAR 2 e l'arbitro di campo. È una soluzione, è un'ipotesi di lavoro comunque anche per il futuro, perché non dobbiamo dimenticare un concetto. Per la prossima stagione la VAR non sarà ufficiale, sarà ancora in sperimentazione, ma online. La decisione finale verrà presa nel 2018, così che, e anche nel 2018 verranno prese anche le linee guida definitive non della è detto VAR. Che, non è detto che non cambi. Esatto, qualcosa potrebbe ancora cambiare. Oh, Carlo ci chiede se la VAR sarà accessibile a TV e giornalisti e quindi al pubblico a casa. A livello documentario probabilmente sì, a livello di in diretta durante la partita, durante se la vedremo partita, quell'immagine lì. In diretta sicuramente no, perché gli arbitri devono essere comunque tranquilli. Nicola da Napoli. Sì, salve, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a te. Senta, io volevo parlare del mercato dell'Inter. Sì. Dico la verità, io sono molto preoccupato, perché in realtà la squadra è quella dell'anno scorso, forse anche indebolita. In difesa è stata presa una riserva, perché Skriniar può essere un buon giocatore in prospettiva, ma al momento, diciamo, non è che aggiunga molto alla difesa. Centrocampo un buon giocatore, ma niente di più. In attacco nulla, niente di niente, né top player né altro. E la dirigenza si nasconde dietro queste frasi di circostanza, state tranquilli. Ma io siamo tu, già tu invece sei un po' preoccupato, dici siamo già al 21 luglio. Io ti dico siamo al 21 luglio, non è detto che, insomma, c'è più di un mese di mercato, però ti faccio rispondere da Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, ciao Luca. Tranquillizza, ciao Nicola anche, da Napoli. Anche a Nicola. Tranquillizza. Sì, beh, io non sono un pompiere, per cui diciamo che come lui posso farmi mille domande. Dopodiché, ripeto, siamo nelle mani di professionisti e soprattutto c'è una proprietà che ha le idee molto chiare. Io capisco le apprensioni di questo momento, ma secondo me a fine agosto ci saranno molti più visi e volti contenti rispetto ad adesso. È chiaro che se dobbiamo fare una valutazione al 21 di luglio siamo tutti un pochino preoccupati. Sì, intanto stiamo vedendo contro lo Schalke, siamo vicini al quarto d'ora del secondo tempo ed è un Inter discretamente viva. Io non so se hai avuto modo di seguire questa prima ora di gioco di questa partita. Ho visto qualche azione, diciamo che la classica amichevole, insomma i ritmi sono quello che sono, però bene o male le individualità l'Inter ce le ha, cioè, i giocatori sono quelli dell'anno scorso, è vero. Ma io non credo che Spalletti voglia quei giocatori, vuole quei nomi ma con un atteggiamento e una voglia diversa. Io capisco che poi possono fare mille ragionamenti sul mercato, perché questo è il periodo del mercato, ma alcuni valori l'Inter ce li ha. Sono giocatori che hanno una professionalità, un'importanza che devono tirar fuori, devono assolutamente far vedere di non essere quelli dell'anno scorso. Dopodiché la rosa sarà integrata. Sì, alcune aspettative sono state indotte, anche le parole di Spalletti, insomma, in queste settimane hanno fatto capire che si aspetta qualcosa. Sì, sicuramente. Secondo me molto l'ha fatto anche la comunicazione, perché Giovanni lo sai meglio di me, per tanti mesi si è parlato di mercato estivo da 200 milioni ed era una bugia raccontata dai media, ma è smentita però anche dalla società, e questa cosa secondo me ha portato a delle aspettative che non verranno mantenute. Sarà un mercato importante, ma non da 200 milioni, non perché non si voglia fare un mercato del genere, ma perché non si può fare. È una questione di contratti firmati con l'UEFA molto molto chiaro. Allora, l'ho spiegato 6 mesi fa, secondo me oggi l'Inter farebbe meno fatica in questo rapporto che c'è in questo momento con i tifosi che sono preoccupati. Poi ci sono gli altri, no? Dall'altra sponda del naviglio che stanno comprando giocatori su giocatori. Comunque, e quindi tutto noi, questo Giovanni, produce le telefonate prima, sì. L'Inter ha firmato un contratto di 3 anni con l'UEFA, è proprio un contratto. Cioè, che intanto ha segnato lo Schalke 04, prego. Bene, portiamo un buon notizio. E deve portare l'Inter nell'arco dei 3 anni ad avere un massimo di meno 30 milioni. Siccome i meno 30 milioni li ha fatti quest'anno, l'anno prossimo deve arrivare a zero. Cioè, con calcoli molto semplici che vanno rispettati. Ma il tifoso non vuole sentire la razionalità di Biasin, vuole sentire il grande acquisto. È normale. Ma il grande acquisto non è impossibile farlo, nonostante ci sia questa cosa dello zero. Cioè, tu puoi arrivare lo stesso a comprare dei giocatori, però non puoi fare quello che ti pare. Non puoi prendere un giocatore che guadagni 10 milioni di euro e abbia un ingaggio del genere. Puoi anche farlo, però poi dopo devi essere molto bravo l'anno prossimo ad arrivare a questo zero, e siccome possono fare tante cose ma non i miracoli, bisogna stare attenti. E neanche le sponsorizzazioni così a pioggia, esatto. Perché l'Inter già l'ha usata la leva delle sponsorizzazioni. Già ne sono arrivate tante, poi aumenterà il fatturato, si possono fare un sacco di cose, però da zero a 1000, insomma, c'è un bel salto. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, ciao, buon proseguimento, ciao. Allora, ha segnato Caligiuri per lo Schalke 04, quarto d'ora del secondo tempo, ha messo a terra Nagatomo con una finta e ha battuto Handanovic con un diagonale. Abbiamo ancora un minuto, volevo sapere da Luca Marelli cosa ne pensa dei tanti ex arbitri che fanno i dirigenti. C'è Romeo sulla panchina del Milan, c'è Russo che ha appena finito e che andrà alla Casertana. Guarda, io non sono contrario, ti dirò, e magari ti stupisco. Il problema è un altro, che è un peccato che queste risorse non rimangano all'interno dell'associazione a restituire qualcosa che è stato loro insegnato. Cioè, arbitri di questa levatura dovrebbero insegnare ai giovani i trucchi del mestiere. Però li capisco perché usciti dalla Cannes non si ha un paracadute, non si ha una pensione, se ci si ritrova senza un introito piuttosto elevato. È anche vero che ci sono alcuni che preferiscono rimanere nel calcio sotto un altro, con un altro ruolo, e preferiscono lasciare. Io non discuto mai. Ma a te piacerebbe fare carriera da dirigente sportivo? Ma guarda, qualche proposta l'ho avuta, purtroppo non ho avuto proposte serie. E nel mondo del calcio ci sono centinaia di società in Italia, e anche le società dilettantistiche a volte si vogliono appoggiare a qualcuno che ha un'esperienza superiore rispetto a loro. Il problema è che i progetti spesso sono un po' campati per aria. Ecco, io su un progetto di 6 mesi, francamente, non è il caso. Grazie, no. Luca. Grazie a voi. Grazie Luca Marelli, che ovviamente troveremo ancora nei prossimi mesi con la ripresa della stagione. Abbiamo il GR, poi torniamo con Racing Team, la grande coppia di fatto, Roberto Ungaro, Leo Turrini. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Un cordiale saluto da Armando Torno, musica maestro di questa settimana, avrà come ospiti Vittorio Emiliani e insieme parleremo dei problemi del nostro patrimonio musicale, archivi, biblioteche, ma non soltanto. A risentirci dunque domenica prossima alle 21:15, un cordiale saluto da Armando Torno. Devo stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo, tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Racing Team. Non abbiamo nemmeno cominciato e c'è già chi ha scritto: dite a Turrini che sono anch'io in coda sulla Pero Cormano. Leo, ciao. una coda, una fila lunghissima. Cosa volete che ma dietro dica? A chi che questa settimana sono tutti in vacanza? No, sono tutti in vacanza, ma ci sono tutti i tifosi dell'Inter che sono qui con me bloccati perché stanno aspettando un qualche acquisto da parte di Suning e non si muove nessuno fin quando l'Inter non avrà comprato un giocatore, hai capito? Perché qui non si capisce bene. Ma sì, allora digli che ha appena segnato Muriglio, che ha fatto 1-1 contro lo Schalke 04, tra l'altro un gol incredibile, un tiro a giro alla Del Piero, prego. Sì, però sì, Leo, ma no, il sospetto è che Muriglio sia meglio nel ruolo della Del Piero che in difesa, se pensiamo alle prestazioni della passata stagione. Comunque, cosa vogliamo fare, amico mio? Siamo qui, aspettiamo. Ti ho già detto che Vettel va al Milan a guidare il Pullman, comprato anche lui. L'Inter potrebbe rispondere con Raikkonen per il furgoncino, il pulmino. Guarda, gli amici da casa sono ancora più perfidi. Domanda Leo Turrini. Sa se il terzo pilota Mercedes Raikkonen è stato riconfermato? Non l'ho scritta io, Tu mi vuoi trascinare, ha scritto Valerio. No, saluto Valerio, ma tu mi vuoi trascinare, coinvolgere, come diceva Dante, che era un noto ingegnere di Formula 1, nella morta gora di una polemica inutile. Allora, guardate, io ve l'ho già detto in tempi non sospetti. Se la Ferrari, e intendo dire Sergio Marchionne, tra l'altro domani il consiglio di amministrazione della Ferrari che si riunisce in pompa magna, bello, per celebrare i trionfi in borsa, bla bla bla bla, se il presidente Marchionne dice non teniamo il nonno della compagnia, che è Kimi, e mettiamo al suo posto Leclerc, il ragazzino che è prodotto della scuola piloti Ferrari. Tu sei contento? Sì, perché quella è una scelta logica. Se invece, seguendo il tuo, devo dire, bizzarro, mi trattengo, bizzarro parere, mi vengono a dire, al posto del salto bevitore ci vediamo Perez, Hülkenberg, questa gente qui, io vi dico auguri, poi li voglio vedere se stanno 3 volte su 5 in qualifica davanti a Vettel. Ma però il tempo sarà galantuomo, il cari amici di Radio 24, cosa volete che vi dica? Così. Aspetta che adesso ti faccio sentire Emerson Fittipaldi, prima però saluto saluto il tuo compagno di trasmissione Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ungaro dov'è? Con Belen? No. Ungaro è in vacanza scandalosamente da un mese. Lo so. Non ci ricordiamo più nemmeno come è fatto in faccia Roberto Ungaro. Tra Carlo Genta, Ungaro, Iannone, Belen è una vacanza permanente. Io spero che prima o poi vi decidiate a tornare a lavorare, amici delle due ruote. Comunque fate pure con comodo, tanto io è tempo di vacanza prima che mondiale, anche se Valentino è rientrato ieri sera, era a Misanino con l'Academy a girare con le moto piccoline e quindi insomma per lui è finita, per gli altri ancora magari no, c'è chi è ancora in vacanza e chi no. È tutto abbastanza fermo perché il mercato piloti è blindato, l'unico che rimane ancora è Miller, che probabilmente era a Redding, lo abbiamo già detto in Pramac, ma non è ancora deciso, deve prima correre la 8 ore di Suzuka. Ecco, questo è il nostro appuntamento delle ruote. Il 30 luglio ci sarà questa gara che per i giapponesi è importantissima, per noi non molto, però. E notizie per Leo su Iannone non ne ho, sono un po' stanchi i rapporti, l'abbiamo detto, ma non c'è nessun pilota che possa sostituirlo valido. Un po' stanchi perché... con la Suzuki, chiariamo, perché a Leo Turrini interessano insomma, questo Ungaro fa un po' il furbo, dice rapporti, con chi? Tra chi? Parla chiaro, Ungaro. Tra Iannone e la Suzuki. Ma avete letto, immagino, tutti e due con attenzione l'intervista di ieri alla Gazzetta di Espeleta, che ha detto la Suzuki è difficile correre con un pilota solo. Sì, no, ma a me ha stupito, hai visto invece il titolo che c'era nell'articolo di ieri, cioè un insulto chiedere a Valentino quando si ritirerà. Pesante questa cosa, pensate come il baricentro del moto mondiale è Vale, tutto gira attorno a lui. Addirittura, secondo Carmelo Espeleta, un insulto chiedergli quando si ritirerà, perché è così ancora protagonista e quindi non gli si può neanche fare questa domanda. Questo fa capire come il sistema Dorna e Valentino siano una cosa sola, c'è già un futuro scritto per il nostro pilota e per tutto il meccanismo. Comunque staremo a vedere. Allora, avevo promesso di far sentire Fittipaldi a carissimo Leo Turrini. Allora, Fittipaldi sull'anno della Mercedes, che non sarà facile, ma credo se ne siano accorti in Germania. Il nuovo regolamento di questo anno la Ferrari è avvicinato molto alla Mercedes, perché loro hanno trovato le soluzioni più presto che le altre squadre. Se non aveva il problema di gomma, le due Ferrari andavano fortissimo a Silverstone. Così non sarà facile per Mercedes questo anno con la Ferrari, che si è avvicinato molto. E poi Fittipaldi, che dice che Vettel sarà campione a fine stagione? Sarà, io penso, un mondiale molto disputato ancora, perché primo anno che la Mercedes c'è paura di una squadra, e la squadra Ferrari, e Sebastian è un campionissimo, anche Kimi va molto forte, no? Kimi sorprende qualche volta, ma Sebastian è più costante tutto il campionato, sarà un bello campionato ancora. Hai capito, Leo, non sei l'unico a sostenere Kimi. Bene, voglio dire, io e Fittipaldi siamo coetanei, abbiamo 74 anni, e la saggezza ci aiuta. Io non so, devi essere tu a dire come ti metti di fronte a questa dichiarazione del bravissimo Emmo, che voglio dire è uno dei pochissimi che ha vinto sia le 500 miglia di Indianapolis che il campionato del mondo di Formula 1, eh. Stiamo parlando di un grandissimo nella storia dell'automobilismo. Io purtroppo temo, da ferrarista, che Emo appunto, che è molto anziano come me, sia rimasto un po' indietro, perché quando dice la Ferrari... Gli si è mancato l'aggiornamento delle ultime settimane. Sì, nel senso che nell'ultimo mesetto purtroppo quello che abbiamo visto sembra indicare una tendenza, un'inerzia, come dite voi che siete giovani e bravi, avete studiato, della stagione a favore di Lewis Hamilton. Ma è vero che quando viene l'estate Hamilton si distrae, c'ha tutte le sue belene in giro, hai capito? L'anno scorso è tornato alle vacanze e ha perso il mondiale, però con un piccolo particolare, che l'altro aveva la sua stessa macchina. No, ma infatti, allora, diciamo che la Ferrari, questo Fittipaldi ha ragione, l'abbiamo visto tutti, in questo campionato si è avvicinata tantissimo, ha vinto tre gare, è stata spessissimo sul podio, Vettel è ancora in testa alla classifica del mondiale, sia pure di un solo punto. Il problema, come io dico sempre quando sono qui in coda sulla Pero Cormano malinconicamente eccetera, afflitto da tanti cattivi pensieri, è che questa è una stagione che veramente si decide in fabbrica dagli sviluppi, e la sensazione che abbiamo avuto negli ultimi 40 giorni è che la Mercedes abbia recuperato quel gap iniziale che aveva e sia tornata davanti. Allora, adesso fra una settimana abbiamo Budapest, è una pista diversissima da Silverstone. Ecco, lì se la Ferrari ha qualche cosa di buono e di nuovo da proporre, ce ne accorgiamo subito. È arrivato il momento. Vettel all'Hungaroring deve vincere, se la Mercedes vince anche a Budapest, allora diventa una cosa veramente complicata. Sì, perché quella che noi bravi chiamiamo inerzia poi diventa complicata da ribaltare una seconda volta. Ho qualche messaggio da girarti. Ma prima voglio chiedere invece a Roberto Ungaro, le vacanze quando è che finiscono, Roberto? 3 agosto, Bruno si riprende. A Ferragosto? A 3 agosto. Ah, 3 agosto. Agosto. 3 agosto, sì. Ha detto ancora Spelletta, non me ne frega niente di un mondiale in cui vincono in tanti, mi interessa che complessivamente sia combattuto. Ti faccio sentire Marquez dalle sue vacanze in Spagna. Bueno, está siendo un campeonato de los cuales yo soy joven, pero no recuerdo un campeonato tan igualado, ¿no? Que después de 9 carreras haya 5 pilotos en 26 puntos, 4 de ellos en 10 puntos, y esto pues lo hace mucho más difícil todo, ¿no? Porque sabes que no puedes fallar, no puedes controlar solo a un piloto, sino que hay 4 rivales que sabes que te pueden ganar en cada carrera. Puede cambiar mucho, ¿no? La historia de una carrera a la otra. Oh, tutto molto comprensibile, anche se in spagnolo non ricordo un campionato così combattuto, ci sono 4 piloti in 10 punti, tutto può cambiare da una gara all'altra, così dice Marquez. Tu hai capito chi è il favorito di questo mondiale, Roberto? Secondo me Marquez forse ha qualcosina in più di tutti, cioè sta facendo un po' il furbo. Sì, non tanto perché ha chiuso in bellezza prima della pausa estiva con una vittoria e facendo capire che lui c'è ancora, anzi è tornato avanti, ma perché secondo me si è anche un po' nascosto fino adesso, e quindi alla fine Michelin permettendo, perché rimane sempre il punto di domanda, l'incognita di questa stagione, perché è così questo campionato, dobbiamo dirlo, grazie nel bene e nel male a Michelin. Però vedo che un Marquez lo vedo secondo me forse favorito rispetto a Vinales, rispetto a Valentino, c'è qualche cosa in più. Poi è vero che nelle bagarre può sempre succedere qualche cosa e quindi fino all'ultimo va a dire a scacchi, non si può mai dire. Però io a oggi, adesso, dico Marquez. Io mi ero illuso, lo dico a tutti e due, che Valentino Rossi potesse fare un miracolo. Sì, però un campionato così è molto difficile. Secondo me è ancora lì per battagliare, tutto può ancora succedere, e io l'ho capito quando lui non si è accontentato del secondo posto ed è caduto. Lì vuol dire che veramente aveva, è vero che è un errore, lo abbiamo già detto tante volte, però era la sua voglia di primeggiare, di esserci, di dare uno schiaffo morale a tutti gli altri. E lì ho capito che Valentino, secondo me, quest'anno c'era, era della partita. Comunque nulla è già deciso e può essere anche stagione, lui. Sì. Esatto. Però forse è più facile che vinca la Ferrari. Allora, messaggi per Leo Turrini. Fittipaldi ha 16 anni più di te, caro Leo. Io devo dire che quando andavamo a cena, io, Nuvolari, sì, Varzi, Fangio, eccetera, chi ha scritto questa cosa non c'era. Io purtroppo sono abbastanza avanti e riconosco i limiti. Infatti voglio dire, probabilmente difendo il santo bevitore Raikkonen per una sorta, come dire, di solidarietà generazionale tra rincoglioniti, avete capito? Sì. Sai che c'è un amico che vorrebbe sostituirlo con Rosberg? No, allora questa è una suggestione che vaga per aria da molto tempo. Lo faresti anche tu, dai. No, beh, assolutamente, però è che ti spiego, non è un mistero per nessuno che Marchionne abbia una grandissima ammirazione per Nico. L'ha anche detto apertamente, sia prima che si ritirasse, sia anche quando ha deciso di uscire di scena in quel modo lì. Però mi sembra, e spero che sia così per motivi che qui abbiamo già affrontato, che Rosberg sia molto coerente con la decisione sorpresa che ha assunto qualche mese fa, no? Lui ha sempre escluso di poterci ripensare. Era a Silverstone, secondo me rosicava spaventosamente perché era ospite del box Mercedes, ma certo lui vedere vincere Hamilton non credo lo riempia di entusiasmo, considerata la relazione che hanno. Mi pare però che stia francamente mantenendo, diciamo così, anche la motivazione in ragione della quale ha deciso di chiamarsi fuori, no? Cioè lui ha detto: io ho realizzato il mio sogno, lo stress è troppo grande, non tornerò, e immagino che sia veramente così. Immagini che sia così. C'è chi chiede di Ricciardo, c'è un altro amico che dice Rosberg è più furbo di tutti. Comunque il filo conduttore è che vogliono far tutti fuori Raikkonen e non li sto scrivendo io. Scusa, allora i messaggi li scrivi tu, ascoltano te. Allora io ve l'ho già detto, il discorso di Ricciardo qui non è che ci sia qualcuno che possa obiettare. Sarebbe perfetto. Alcunché sulla qualità di Ricciardo. Però tenete presente una cosa, della Ferrari è un capitano che si chiama Seb Vettel, il quale è stato compagno di squadra di Ricciardo nel 2014 e in Red Bull. E non è che le cose siano andate particolarmente bene per il tedesco, perché quell'anno Ricciardo vinse 3 gare, Vettel nemmeno una, tant'è vero che Vettel, usufruendo di una clausola contrattuale, si chiamò fuori, salutò i bibitari e venne alla Ferrari. Ora, io chiedo all'amico che ha scritto questa cosa, ci vai tu da Vettel che si sta facendo un mazzo così per tentare di vincere questo mondiale, dici, sai cosa c'è? L'anno prossimo ti mettiamo in casa quello che quando stavate in Red Bull, insomma, ti dava sarebbe, anche sarebbe del... meraviglioso, Leo. Sarebbe meraviglioso. Sì, sarebbe meraviglioso per te che dopo prendi per i fondelli me, ma in una logica di interesse di squadra della Ferrari io non la vedo un'operazione particolare. No, non la faranno, terranno Kimi Raikkonen così andiamo avanti perché, per un altro anno. Ricciardo, tra parentesi, è blindato come Verstappen da un contratto con Red Bull. Ma tu lo sai che i contratti sono fatti per essere stracciati. Solo se c'è il Milan di mezzo. Se c'è il Milan di mezzo si stracciano i contratti. Se c'è l'Inter che vuol far stracciare qualche contratto a qualcuno, i contratti sono di ghisa, proprio non si possono assolutamente intaccare, capito? Ciao Leo, alla prossima. Ciao, buon weekend a tutti. Allora, chiudo rapidamente invece con Roberto Ungaro per chiedergli cosa dobbiamo aspettarci da Brno alla ripresa, visto che abbiamo capito che l'Ungheria per la Formula 1 è decisiva, e invece vogliamo un po' capire cosa dobbiamo aspettarci. Mi sta al vecchio stile, veloce, molto ampia. Secondo me Yamaha potrebbe venire fuori, Honda anche lei, e speriamo sorpresa Ducati, perché sarebbe una sorpresa in quella pista, per Dovizioso soprattutto, che può contare su una moto che lì le prestazioni dovrebbero arrivare, delle novità aerodinamiche per Ducati, hanno dichiarato, quindi un nuovo profilo della carena, e staremo a vedere. E poi si chiuderà l'ultimo capitolo del mercato, che è quello di Miller, che poco importa, però così la scacchiera poi si compone ed è completa, ecco. Saremo pronti per la seconda parte della stagione. Grazie Roberto, anche te, alla prossima. Giovanni, un saluto a tutti, andiamo sulle strade del Tour. Quattro giorni che ha la bronchite, perciò ragazzi, più di così non si poteva fare, è stato un grande, perciò va bene così. Sono già contento dove sono arrivato per come stavo e quindi via. Dai, pensiamo a finire questo tour, comunque sia fa parte dello sport, insomma, avere anche un po' di problemi fisici, quindi via, l'importante essere consapevoli di aver lavorato bene durante tutti questi mesi. Non era facile tornare dopo un infortunio ed essere già a questi livelli. Questi erano Martinelli e Auru dopo la sentenza di ieri sull'Isoara. Pier Augusto Stagi, ciao. Buon pomeriggio, ciao Giovanni. Allora, io non riesco a essere deluso, anche se non è andata bene. Ieri, devo dire, mi ha riempito d'orgoglio vedere Auru e si vedeva che non stava bene, comunque non mollare un centimetro, restare in corsa, restarci con la testa. Poi abbiamo scoperto che ha la bronchite. Ve l'avevo anticipato nel collegamento di ieri pomeriggio che aveva la bronchite. Quindi ve l'avevo detto che non stava bene e che non stava bene da qualche giorno. È stato poi confermato dal team, che logicamente l'ha tenuto nascosto il più possibile, ma non tanto perché trovano le scuse, perché queste dinamiche in realtà sono normali, uguali e logiche. Perché non possono dire Fabio Aru c'ha la bronchite, e cosa farebbero gli Sky o i Movistar piuttosto che la Giudera, cioè i grandi team delle grandi squadre, farebbero come gli squali, lo attaccherebbero immediatamente, un po' come un calciatore che dice guarda mi fa male il titone, sono sicuro che al primo scontro gli darebbero una bella botta sul titone e questo se ne esce dopo due minuti di partita. Detto questo, condivido quanto dici, che è stato formidabile, è stato bravissimo, perché intanto bisogna ricordarci da dove eravamo partiti. Fabio Aru è al suo secondo Tour de France, qui c'è veramente, come abbiamo detto, ripetuto più volte, è l'università del ciclismo, c'è il mondo che ti guarda, ci sono più di 90 televisioni che seguono il Tour de France, ci sono 1200 giornalisti, c'è un calore assoluto, non solo meteorologico, ma anche di passione, c'è il meglio del ciclismo mondiale, e lui l'anno scorso ha fatto il suo esordio, 13°, quest'anno si è ripresentato alla sua seconda esperienza, ha vestito per due giorni la maglia gialla, ha vinto una delle tappe più belle di questo Tour de France, la Place des Belles-Filles, e poi ha lottato come un leone ed è quinto, quindi intanto si è migliorato ed è con l'eccellenza del ciclismo mondiale, quindi ha tutto per ragionarci, per portare a casa ciò che di buono ha fatto in queste settimane, da lunedì riposarsi ma anche pensare a quello che va fatto, migliorato in prospettiva, Giro d'Italia e Tour de France. Ha compiuto da poco, il 3 luglio ha compiuto 27 anni, è giovanissimo, ha davanti a sé 5 anni perlomeno di altissimo livello ed è uno dei corridori più forti al mondo per le corse a tappe, insieme ai vari Froome, insieme ai Bardet. Sì, non può lamentarsi. Perché non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo due eccellenze per i grandi giri, due eccellenze del ciclismo mondiale, che sono appunto Nibali, che è un pochino più vecchietto perché va per i 33 a novembre, e invece il giovane Delfino, che all'ombra di Nibali è cresciuto, si è formato e si è plasmato, che risponde al nome di Fabio Aru. Noi di questo dobbiamo essere assolutamente felici. Certo, ci avevamo fatto la bocca buona, ma ce l'aveva fatta anche lui. Abbiamo sperato un po', lui ce l'aveva fatto. Ma magari poteva anche arrivare. Guarda, io trovo ingeneroso questo messaggio che è arrivato via WhatsApp: l'infortunio, la bronchite, la squadra, ci sono sempre mille scuse, non vince perché gli altri sono più forti. Ma in questo momento anche. Però Aru è un corridore che ha davanti tutta una vita. Volevo chiederti di Froome invece, se con ieri ha messo una mano e mezza sul Tour. Beh, sarebbe clamoroso, anche se non è scontata la cronometro di domani. Guai a lui se sottovaluta la cronometro di Marsiglia. Certo, lui in realtà, se noi andiamo a vedere gli stacchi che ha dato nel cronoprologo di Düsseldorf, sono sostanzialmente il gap è stato creato lì, perché poi su tutte le grandi montagne ci sono state veramente scattini, piccole accelerazioni, qualche volatina e punture di spillo, punto. Nella crono di Düsseldorf lui ha dato ampi distacchi, per dire ne ha dati 42 solo a Dari, tanto per dire, quindi 42 li ha presi a Düsseldorf, lui adesso è 1,53, quindi è su quello che noi dobbiamo ragionare. E deve stare però attento a Rigoberto Urán, perché Rigoberto Urán è un corridore sornione che al pari di Fabio Aru ha corso quasi in pratica senza squadra, ha avuto solo un appoggio, un italiano che si chiama Alberto Pettiol. Anche questo ragazzo prendete nota perché è molto giovane, sta facendo esperienza, ma diventerà un gran bel corridore, magari non un campione ma un grande corridore. Però sostanzialmente, scusate, Urán ha corso da solo, ma con un'intelligenza tattica sopraffina, sta pedalando benissimo, anche ieri all'attacco di Parpè è stato lui a rispondere con grande facilità, ritornato sul francesino, ed è uno che è molto portato per le prove contro il tempo. È vero che bisogna vedere quanta benzina che è rimasta nel serbatoio, quindi bisogna vedere le energie che avranno da spendere domani. Vale per tutti, vale anche però, per Froome, che non sempre è stato brillantissimo. Diciamo che Froome ha tutto, ha un bel calcio di rigore da tirare, però non è detto che Rigoberto Urán possa anche pararlo. Capita che certe volte qualcuno ti para il rigore. Capita. Grazie Piero Augusto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie per Augusto Staggi che continuerà a raccontare per Radio 24 le vicende di questo Tour de France. Abbiamo finito. Io ringrazio Giorgio De Luca, Claudia Schiattone, Roberta Frisani. Ultimi istanti dell'amichevole tra Inter e Schalke 04. 1-1, gol di Caligiuri e Murillo. Inter che ha chiuso bene e all'attacco in questo secondo tempo. Lunedì torna Carlo Genta. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti.